Con Paolo Simoni e con Vanessa Mangiavacca parliamo di questa 15ª edizione di Archivio Aperto, col titolo di Bring the Archive into the World, portare l'archivio nel mondo, cioè mettere a disposizione il patrimonio immenso degli archivi privati. È una tendenza che si sta affermando, e anzi si è già affermata negli ultimi 20 anni, che coincidono appunto con la vita di un movies, quella del ritornare agli archivi privati per raccontare la contemporaneità. E questa tendenza noi l'abbiamo voluta, come dire, condensare in questa edizione del festival con un concorso che è la novità di quest'anno. Riguardo alla competizione, la giuria? La giuria è una giuria interamente di donne, Carney Stevens, una giovane regista americana che omaggeremo con Terra Fama, il suo film esordio in anteprima italiana, Pauline de Raymond, direttrice della programmazione della Cinémathèque Française e del festival Toute la Mémoire du Monde, e la nostra Alina Marazzi, che conosciamo da tanti anni, che sarà la presidente della giuria e che è un punto di riferimento in Italia per il riuso dei materiali filmici privati. Quest'anno ricorre anche la nascita di una pellicola, di un formato. Sì, quest'anno è il centenario del formato ridotto, nello specifico della pellicola 9,5 che noi abbiamo deciso di celebrare non solo nel 2022 ma anche nel 2023. Home Movies, nello specifico, è uno degli archivi italiani che detiene il fondo 9,5, diciamo più ampio in Italia, e all'interno del programma Archivi Aperto abbiamo vari appuntamenti che celebrano questo centenario, che sono una sonorizzazione che avremo in anteprima di Archivi Aperto il 15 ottobre al Teatro San Leonardo. Verrà proiettato per la prima volta in anteprima mondiale il film 9,5, che raccoglie circa una ventina di archivi in tutto il mondo, di cui Home Movies è stato tra i principali produttori. E in più un altro evento speciale è la nottata fuori orario, che si svolge nella notte appunto del 23 ottobre, nel quale sarà proiettato per tutta la notte una selezione di 9,5 provenienti dal nostro archivio. Parlando di materiali da riscoprire, ci sono anche i materiali celati. Materiali celati, appunto, il titolo richiama questo doppio senso, perché rispetto alla produzione letteraria e cinematografica di Celati sono i materiali non ancora mostrati, cioè le sue prime esperienze in Super 8, ad esempio, risalenti agli anni 70, oppure gli outtakes, i girati non montati dei suoi film realizzati negli anni 90 sostanzialmente. Ecco, diciamo che questa giornata, che è un po' pendant del programma dell'omaggio che ha dato il Biograph Film Festival, è andare a cercare un Celati, uno scoprire un Celati nascosto. Domenica, con la collaborazione di Angelica, ci sarà cinema ma ci sarà anche musica. Sì, allora quest'anno sono tra i tanti anniversari che vengono celebrati, abbiamo anche i 20 anni di Home Movies, quindi abbiamo deciso di creare un momento finale appunto in collaborazione con Angelica, in cui ci sarà una live performance di circa 3 ore dove si esibiranno 9 artisti per 7 sonorizzazioni che ripercorrono un po', diciamo, i pezzi forti di tutto il percorso di Home Movies, ma anche con sonorizzazioni e proiezioni inedite. Bene, quindi ricordiamo le date: dal 20 al 24 ottobre. Le location sono l'Auditorium Dams e il Cinema Lumière. Ci sono molte, molte location in realtà, a partire dalla nostra sede, Home Movies presso l'Istituto Parri, ma anche Casa Morandi. Appunto, vorrei dire, diamo come riferimento per tutto questo dedalo di cose in cui doversi orizzontare, quale sito lasciamo? Allora, la competizione principale si svolge principalmente alla Cineteca di Bologna, al Cinema Lumière e all'Auditorium Dams Lab, mentre la maggior parte del programma fuori concorso si svolge ad AS, dispositivo arti sperimentali, che sarà il Festival Center di tutto Archivio Aperto. Sul web che riferimenti diamo? Il sito è www.archivioaperto.it, da domani 6 ottobre sarà disponibile tutto il programma.